Se ne sono sentite tante, ma forse non ancora abbastanza. È stato detto e fatto credere che si è stati educati ed abituati. Un solo mondo su questa terra ed un senso unico per il corso degli eventi. Discorsi buoni per ogni occasione, tante retoriche da spendere. La politica, l'economia, il lavoro, gli affari interni e quelli esteri, la destra e la sinistra, con le varianti del caso, bla bla bla. Poi si può fare l'abitudine a tutto, anche al continuo peggioramento di ciò che ha già i limiti della sopportazione. Lo spettacolo dell'informazione, gli interpreti che cambiano, i ruoli che rimangono gli stessi. Per ogni governo che si succede, promesse di cambiamento, qualche accorgimento e poi di nuovo la stessa storia. C'è un ordine sociale, c'è un ordine economico, c'è un ordine politico. Per ognuno di questi, un assetto di leggi e norme adatto al contesto. Gli apparati che li reggono si reinventano, si assestano e si adattano ai tempi, a vicenda tra di loro. Ogni società con le sue regole, in ogni caso sottomesse al progresso, al profitto, al denaro. Tutto è normale, tutto va come dovrebbe andare. Non c'è altro da fare. Non c'è niente da fare. Il potere è stronzo perché è vario. Enel, impresa multinazionale italiana, in gran parte pubblica, presente in 40 paesi per soddisfare 61 milioni di clienti nel mondo, devasta territori in nome dei propri profitti. Succede in Colombia, lungo le valli del Rio Magdalena. Succede in Guatemala, a San Juan Cotzal, nella regione del Quiché. Succede in ogni luogo dove la costruzione di impianti idroelettrici semina morte tra le popolazioni locali e porta alla distruzione di ambienti ed ecosistemi naturali. Secondo quanto riporta il sito ufficiale di Eni, la responsabilità ambientale costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'agire sostenibile ed è strettamente connessa alla capacità di un'impresa di creare valore. A Noto, come in Val d'Agri, a Taranto come nel delta del Niger, l'unica responsabilità ambientale di cui si è fatto carico l'ente nazionale Idrocarburi è stato l'inquinamento di acque e lo sventramento del sottosuolo. Il costo della benzina non è segnato solamente sui cartelli dei distributori. Lo Stato invade e sottomette con l'egida del cane a sei zampe. Dalle vetrine dell'alta moda alle grandi catene di distribuzione, uno dei modi più comuni in cui gli animali vengono utilizzati nella nostra società è l'industria dell'abbigliamento, attività economica di sfruttamento animale che miete più di 60 milioni di vittime tra bisoni, volpi, conigli, procioni e foche, costretti per tutta la loro vita nelle gabbie di un allevamento o catturati con metodi cruenti nei loro habitat naturali. Tra i riflessi di una vetrina luccicante di una pellicceria si possono ancora intravedere le macchie di sangue. I fondamenti della manipolazione, che mira alla creazione di un governo, un esercito, una banca e una valuta mondiali, si basano su quella truffa clamorosa chiamata sistema bancario. Alle banche viene dato il potere di creare denaro, che significa creare denaro che non esiste, cioè il credito. Controllando la creazione del credito, i banchieri possono provocare boom o crolli economici, sia a livello nazionale che internazionale, ogni volta che vogliono realizzare le proprie ambizioni. I banchieri hanno usato questa ricchezza e questa montagna di crediti per comprare e controllare le compagnie petrolifere globali, le multinazionali di ogni genere, i media, le industrie di armamenti, le aziende farmaceutiche, i politici, i consiglieri politici e praticamente tutto quello che gli serve per gestire il mondo. Perché a tutto è stato dato un prezzo. Il fetore proveniente dalla discarica di Roncigliano è arrivato nel centro storico di Albano e di altri comuni limitrofi. Ardea, Pomezia, Castel Gandolfo, Genzano e Ariccia. I miasmi della spazzatura si avvertono distintamente soprattutto la mattina, alle prime luci dell'alba, e la sera dopo il tramonto. 450 tonnellate di spazzatura indifferenziata locale romana, in arrivo ogni giorno vengono trattate e interrate. Nei pressi del cimitero dei rifiuti dei castelli romani aumentano le incidenze tumorali, di mortalità e ricovero, tra le più alte del centro Italia. Gli scarti del consumo quotidiano di merci nuociono come la produzione delle merci stesse. Eppure, di fronte alla calma apparente c'è un moto continuo, sotterraneo, sempre pronto ad emergere. Sempre, a volte, può essere anche un attimo solo. Nella guerra di tutti i giorni, scegliere dove stare è una presa di parte. C'è uno sguardo che volge altrove, al di là della normalità apparente, oltre il consueto che incalza. Travalica i confini segnati dalla geografia, si dà una prospettiva globale, si riconosce nelle sensibilità indomite e nelle coscienze non sopite, tiene insieme le trame della ribellione e della solidarietà. Dove c'è potere, c'è anche resistenza. Negli occhi, questa tua vita che tua non sarà mai della normata impotenti padroni, grazie, grazie al tuo sudore dietro le quinte ti guardo faticare. Cazzo credi alla TV e alla propaganda che fa di questo gesto il paese della cucca, gli morti sul lavoro, alienazione precariata, ancora c'è chi sfrutta e chi viene sfruttato. Ribellati, alza la testa, lotta insieme a noi. Ribellati, alza la testa, non ci arrenderemo mai. Ribellati, alza la testa, lotta insieme a noi. Ribellati, alza la testa, non ci arrenderemo mai. Non credere ai fascisti, cani dei borghesi, fece anche i padroni, ha sempre solo difesi, clubi rifottuti, protetti dagli sbirri, hanno anche il coraggio di dirsi ribelli. Combatti ribelle, per giustizia e libertà, è una strada dura, ma ce la si farà, i nemici sono tanti, ma non ci arrenderemo, combatteremo uniti e trionferemo. Ribellati, alza testa, lotta insieme a noi. Livello chi alza testa, non ci arrenderemo mai. Livello chi alza testa, lotta insieme a noi. Livello chi alza testa, non ci arrenderemo mai. Tra il novembre 2010 e il dicembre 2012 vengono realizzati nel territorio dei Castelli Romani alcuni sabotaggi di varia natura. Si tratta di 13 azioni compiute nei confronti di banche, di una pellicceria, di sedi distaccate di Eni e di Enel e della discarica di Roncigliano e realizzate, a seconda del caso, con incendi, imbrattamenti e diversi tipi di danneggiamento. Lunedì 22 novembre 2010, azione contro la pellicceria Alban Pelle, presa a martellate la vetrina d'ingresso e lanciata vernice rosse sulle vetrine. Lunedì 20 dicembre 2010, azione in solidarietà con Silvia, Costa e Billy, detenuti in Svizzera, attaccata a filiale della Banca di Roma, lanciata a vernice sull'insegna, distrutti a colpi di mazza, bancomat e vetrate. Martedì 8 marzo 2011, attaccato Energy Store dal Bano Laziale. Mercoledì 6 aprile 2011, sabotate macchine del cantiere della discarica di Roncigliano. Domenica 8 maggio 2011, attacco incendiario contro punto Enel Green Power. Mercoledì 25 maggio 2011, sabotato ed incendiato distributore Eni Agip. Giovedì 15 dicembre 2011, azione di solidarietà con i compagni prigionieri, distrutte a colpi di mazza, vetrate e bancomat dell'Unicredit di Frascati. Giovedì 22 dicembre 2011, attaccate due banche a Frascati, la Deutsche Bank e la Banca Popolare di Sondrio. Giovedì 15 marzo 2012, attacco incendiario contro punto Enel Green Power a Frascati. Centoquattro stati su questa terra, dispositivi di controllo dispersi ovunque e altrettanto ovunque germogliano esperienze che a questi si sottraggono. C'è chi alza la testa per le condizioni di sfruttamento in cui si trova, c'è chi si batte per difendere la vita dalla mano dell'oppressore, c'è chi prende di petto l'ingiustizia, qualsiasi essa sia. Gesti che si fanno largo, cammini che si fanno strada, individui e libere associazioni che si chiamano nel loro rapporto tra pensiero e azione. Vita, dolore, rancore, prima una crisalide serrata. scorso settembre nell'ambito di un'operazione coordinata dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo del pool antiterrorismo e dal generale Mario Parente, comandante del ROS, vengono arrestati due ragazzi dei Castelli, Gianluca e Adriano. Secondo gli investigatori sono ritenuti gli artefici di delle tragiche azioni avvenute nel territorio dei Castelli Romani ed inoltre sono ritenuti appartenenti, secondo quanto diffuso dai media, alla cellula Individualità Sovversive e Anticivilizzazione della Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzione Internazionale, FAI FREE. Vengono fatte pesare su di loro le accuse di associazione di confinità di terrorismo o di diversione dell'ordine democratico, oltre a quelle di incendio, furto aggravato in concorso, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Attualmente Gianluca ed Adriano sono sottoposti al regime detentivo di alta sorveglianza 2, rispettivamente nelle carceri di Alessandria e Ferrara. Oltre alla repressione ordinaria, su di loro è stata architettata una spettacolare operazione mediatica, durata il tempo necessario per accendere i riflettori su questa vicenda. Il solito modo per dipingere chi incappa nella repressione come un mostro, un terrorista, un pericolo. Viene spontaneo chiedersi, pericolo per chi? La consueta maniera per infondere paura su gesti che danneggiano luoghi e mezzi a disposizione di chi sfrutta e devasta. Al momento sono già 8 i mesi trascorsi in carcere, all'interno di quelle sezioni speciali dove vengono rinchiusi uomini e donne, la cui prima colpa che viene loro attribuita è il pensiero di cui sono portatori. L'isolamento dei prigionieri dal mondo esterno e dei detenuti gli uni dagli altri garantisce alla prigione di non formare una popolazione solidale. L'isolamento garantisce alla prigione di esercitare sui condannati col massimo di intensità il potere correttivo che si propone di riqualificare il fuorilegge come individuo addomesticato. L'azione carceraria è coercizione per mezzo della rottura di ogni relazione che non sia controllata dal potere e ordinata dalla gerarchia. Nonostante questo, la solidarietà tra ribelli permette di rompere questo isolamento e far sì che le voci di chi è recluso possano uscire fuori. Queste sono le parole che Gianluca ha voluto far arrivare all'esterno del carcere. 9 marzo 2014. Non solo contro il carcere, ma anche contro la reclusione di tutti i viventi. Vorrei iniziare questa prima parte con l'analisi rapida sulla repressione, le sue funzioni e la sua applicazione, per poi parlare in maniera efficace della mia visione delle cose. Molto spesso preferisco arrivare alla radice della discussione o di qualunque altra situazione. In questo caso voglio premeditatamente sorvolare ad alta quota il dibattito politico-sociale, seppur radicale, sul carcere e scendere in picchiata sulla razionalità della reclusione del vivente, di qualunque forma esso sia, sullo sradicamento delle logiche del diritto e della sua formalità. Per quel che riguarda la mia posizione rispetto al contesto e alla vicenda che mi vede prigioniero, è tutto già specificato nel mio secondo contributo pubblicato sul numero di gennaio della Miccia e credo anche sui siti di controinformazione. Mi tratterrò sull'allargare il dialogo scritto a maglie troppo estese anche per evitare ripetizioni. Una parziale visione e praticità della lotta e resistenza potete già leggerla, se ne avete voglia, in un primo scritto pubblicato, Guerra alle macchine. Perciò vorrei stringere momentaneamente il dialogo in maniera specifica sulla reclusione derivata da specismo, civiltà e normalizzazione delle lotte, tenendo un segno profondo di unicità nei contesti del conflitto con l'esistente. Negli ultimi tempi le ondate repressive, in genere antianarchiche, spesso avvengono nelle fasi dormienti della strategia degli apparati cosiddetti antiterrorismo, della polizia politica. Queste manovre operative, oltre che per il loro fine repressivo, vengono sfruttate utilmente per montare casi mediatici, comprese false accuse, e diffondere un'impressione di costante pericolo terroristico, riecheggiando i sempre rinomati anni di piombo, infiltrate frange estreme e salti di qualità. Quello che si vuole offuscare è un reale livello di scontro e di dura resistenza allo Stato, ai suoi mostri nocivi e alle sue sottostrutture autoritarie. Un attacco in diversi contesti di lotta, anche individuali. Contributo reale, fuori dal controllo formale, in cui, invece, si trovano la maggior parte dei movimenti sociopolitici. Questi contributi vengono colpiti pesantemente da vecchie accuse che non stanno né in cielo né in terra, che non vengono sentenziate solo per cavilli burocratici di inapplicabilità. Parlo di reati associativi come il 270 bis, il quale arriva fino ai 20 anni di carcere e più, che ti viene messo a carico, nel caso di arresti per generali motivazioni politiche, a prescindere dai fatti specifici di cui sei accusato, per diventare soltanto un aggravio mediatico utile al prolungarsi di una carcerazione preventiva. Vedi il caso di Ardire, per esempio. Nel caso cada questo tipo di baraccone accusatorio, i signori e le signore PM se ne lavano le mani, scrollandosi la mantellina, magari su un anno di carcere preventivo, togliendoti un pezzo di vita che nessuno ti ridarà mai. come ulteriore arma repressiva dello Stato restano anche devastazione e saccheggio, ormai applicate in quasi tutte le occasioni di scontro, e l'aggravante terroristica, quest'ultima in gran voga per ogni occasione. Voglio aprire una parentesi importante sul caso dei quattro compagni arrestati con l'accusa di aver partecipato ad una passeggiata notturna in Clarea, nel cantiere della TAV, e, come mi è capitato di sentir dire, presunti colpevoli del suicidio di un compressore, lasciatosi spirare tra le fiamme. In questo caso è stato applicato il 270-sexies, codice esposto dopo gli attentati alle metropolitane di Londra ed eventi simili. Quindi ben altre gatte da pelare rispetto ai fatti in Val di Susa, ma visto che non si riesce a debellare e colpire in maniera pesante chi resiste alle grandi e piccole opere nocive, si spolverano, si tirano fuori dal cilindro marcio della legge ogni tipo di escamotage, giustificando tali accuse con la ridicola lesa immagine dell'Italia e dell'Europa, semplicemente perché non si vuole in tutti i modi riconoscere che nel bel paese si resiste con l'uso del sabotaggio. Chiudo rapidamente questa parentesi che sul ridicolo della civiltà legalitaria dell'ordine democratico mi porterebbe a scrivere ulteriori pagine di nefandezze. Per quanto riguarda il carcere in sé e nello specifico l'alta sorveglianza, voglio dire che alla fine ci si rende conto di essere nel ventre putrido di una bestia, certo più grande, ma possibilmente abbattibile. È lo stesso modello scolastico che indottrina i bambini come futuri schiavi in sottomissione, fatto di mille regole, modi formali e situazioni ridicole e paradossali. A volte quasi ci si dimentica di dove si è, sembra di stare in una specie di bolla surreale, collegiale e farsesca, ma a farti tornare alla cruda realtà sono i giornalieri momenti di malinconici pensieri, quando sei solo, guardando un pezzo di cielo e di orizzonte da dietro le sbarre e le reti. Pensi che di sicuro non dovresti stare lì dove sei, ma invece dove sei cresciuto o nei luoghi in cui vivi la tua esistenza, al fianco di chi ti è sempre stato accanto. Queste sezioni di alta sorveglianza negli zoo per umani, oltre che tenerti distaccato da tutto e tutti, mirano all'annientamento della determinazione dell'individuo. Non vedi altro che la tua cella, un piccolo corridoio e una vasca di cemento 6 metri per 6, in cui ti portano a passeggio come i cani domestici. Pensate a questo in termini di anni, cosa significhi? Credo che ci si può stare a pensare quanto si vuole, senza avvicinarsi nemmeno alla realtà. Con l'occasione voglio dare un ulteriore segno di solidarietà diretta a Nicole e Alfredo, prigionieri a Ferrara. Solidarietà e complicità già dimostratagli personalmente, ma che forse in maniera pubblica ha un altro significato. Una sentenza inquisitoria li ha condannati in maniera ostativa a passare anni nelle gabbie di un esistente che hanno sempre combattuto, di morte e di dominio, a cui hanno risposto con la determinazione e il coraggio di pochi e che tuttora continuano a mostrare senza rimorsi. Non sto qui a fare anacoretismo o ad istigare qualsiasi voglia attività che mi costerebbe, in maniera poco utile, ulteriori notifiche processuali. Quello che voglio evidenziare, tornando al carcere e repressione, è che spesso c'è un problema nel riconoscere di essere ai ferri corti con la democrazia e i suoi meccanismi al di là delle proprie condizioni e pratiche di lotta. C'è una sorta di parassita legalitario e garantista del diritto civile anche tra compagni anarchici. Per quanto mi riguarda, a questo parassita del diritto preferisco che si diffonda un virus di ostilità anticivilizzazione reale. In carcere ci si possono mettere per condimento tutti i diritti e comodità che si vogliono, ma resterà sempre un boccone amaro e velenoso da mandare giù. Personalmente l'ho assaporata la rottura dell'immaginario diritto che nell'inconscio crediamo di avere quando, dopo aver esposto con poca grazia e vari psicoeducatori del carcere di Regina Coeli la mia posizione di ostilità e avversione allo Stato e alle sue entità fisiche, venni rinchiuso 2 settimane in una cella liscia. Per chi non è pratico, fortunatamente, di celle lisce sono quelle in cui si chiudono il rischio suicidio e i pericolosi per se stessi e gli altri. Non ci sono stipetti, lenzuola, vestiti e accessori. Hai una spugna per dormirci sopra e un tavolinetto di ferro. Ho dovuto rifiutare ogni giorno le loro schifose terapie di psicofarmaci. Questa è stata la risposta coercitiva della democrazia e dei suoi funzionari. Liberare animali non umani da ogni gabbia è lo stesso che liberare gli uomini dalle loro stesse rigabbie, fisiche e mentali. Un carcere è anche la società e le sue maniere di domesticazione dei viventi, di ogni specie che sia, e questa non è la solita frase fatta. La praticità di questo tipo di concetto sta nel distruggere e combattere costantemente la razionalità della logica di funzione della gabbia, del contenimento-concentramento e della reclusione. Quando parlo di raziocinio, della reclusione in gabbia, non crediate che passi molta differenza dal rinchiudere un uccello o una scimmia oppure un umano. Nella logica del dominio specista non c'è questa distinzione, è forse l'unico caso di paradossale uguaglianza che tanto desideriamo. Pensiamo a come fino al 1840 era normale amministrazione il traffico e la vendita di umani per la schiavitù, usati per l'estrazione mineraria e le coltivazioni intensive nelle colonie. Certo che ora non è che siano cambiate molte le cose, ma è ancora peggiore l'esempio del 1650 circa, quando i conquistatori europei nelle Americhe stabilirono per legge l'allevamento e la riproduzione sul posto degli schiavi, quest'ultima più conveniente delle faticose modalità di cattura e trasporto. Alla fine qualcuno potrebbe pensare alla conquista dei diritti civili, a quelle garanzie che però smontano ogni determinazione e presa di posizione rispetto alla reale situazione di conflitto con l'esistente. L'ammorbidimento, la delazione e l'ovattarsi nelle garanzie democratiche spingono fuori, spesso, dai ristagni, le belle passeggiate nei cortei e prese di distanza da certe azioni e scelte pratiche di coraggiosi individui, come nel caso del ferimento del boia nucleare di Nolfi. Ognuno di quei guazzabugli alternativi e sinistroidi e metodi sociopolitici non fanno altro che dare benzina a quel che resta in piedi della marcia società-stato. L'ordine, il diritto penale civile e la sicurezza, o meglio la repressione, che nutrono direttamente quel mostro chiamato carcere. Per l'anarchia selvaggia, Gianluca Iacovacci. Ciò che segue sono alcuni stralci di un comunicato che Adriano ha inviato alla cassa di solidarietà Aracni del 25 marzo scorso, all'indomani del suo trasferimento per udienza preliminare presso il Tribunale di Roma. La violenza genera violenza, indipendentemente da quanto sia giusto o sbagliato, da quanto astruso sia il confine tra gli opposti e da come questi possano convergere. La parola è il concetto stesso di violenza, da parte di chi ne detiene il monopolio assume profonde mistificazioni. Il dissenso in ogni sua espressione viene sproporzionalmente represso, non che stupisca, vaglia a spiegare che è primavera. È tristemente noto il modus operandi della sbirraglia politica, nell'artistica architettura di fantomatici castelli e l'accusa di appartenere a fantasiose associazioni e quali le armi dell'apparato giudiziario dello Stato capitale, servile e funzionale al miserabile potere, fautore e praticante della logica dominante. Tra il cemento e l'acciaio che mi imprigionano e la servitù carceraria ottemperante in tale sbirresca funzione, usciere controllore, scrivo queste poche righe come un personale sfogo e rompo un silenzio soffocante. Saluto e ringrazio di cuore gli amici e le amiche di sempre, tutti e tutte le compagne e le realtà solidali e vicine. Esprimo quindi la mia solidarietà a tutte e tutti i ribelli e le e gli oppressi resistenti, dentro e fuori le galere, e con fraterno affetto abbraccio forte Gianluca, compagno caro. Tutte le istituzioni, siano esse politico-amministrative, economico-finanziarie o socio-culturali, sono indirettamente o direttamente responsabili della prosecuzione di questo stato di cose attraverso la moltitudine dei mezzi coercitivi, nell'imposizione e sopraffazione di volontà e quindi nell'esercizio di potere, legittimato dallo Stato di diritto. La moderna civiltà imperialista si espande mediante l'illusione e la corruzione, il ricatto, la militarizzazione dei territori o dichiarando esplicitamente guerra. Vomita cemento e tossicità, inghiotte la natura, omologa e annienta popoli e culture, opprime con la forza ogni resistenza. D'altra parte sono millenni che la tirannia civile caratterizza l'umanità, in quanto specie evoluta schiavizzatrice. Nel calderone globale mercificatore, le politiche liberali e le logiche del commercio dettano legge. Gli stessi stati, facendo i doverosi distinguo, sottostanno ossequiosi ad organismi sovranazionali, trattati internazionali e al dominio finanziario strangolatore. I governanti hanno affinato i metodi e affilato le lame. Analizzano insulsi valori, parlano di crescita, sviluppo e mediante tecnicismi assumono fattezze sempre più totalitarie, trovando placido consenso.

Con il provvedimento di rinvio a giudizio, il processo, di fronte alla Corte d'Assise, avrà inizio il 26 maggio. Il GUP d'Alessandro ha richiesto di disporre che gli imputati debbano partecipare tramite videoconferenza. La decisione sarebbe motivata da una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che prescrive l'utilizzo di questo dispositivo come misura di contenzione dei detenuti più pericolosi, adottata in seguito all'evasione di Domenico Cutrì, avvenuta nel corso di un trasferimento giudiziario. Si tratta di una misura che d'ora in poi potrebbe riguardare, insieme ad altri, tutti i procedimenti riguardanti i detenuti in regime di alta sicurezza. L'utilizzo della videoconferenza rientra all'interno di una politica carceraria stabilita dalla Comunità Europea basata sul modello della differenziazione e quindi dell'isolamento. L'isolamento, che si tenta di imporre in maniera sempre più stringente, può arrivare ad essere una vera e propria forma di tortura, che provoca pesanti danni fisici e psichici a chi la subisce. Una serie di provvedimenti adottati recentemente in sezioni AS2, riservate ai compagni rivoluzionari, sono indirizzati ad aumentare il grado di isolamento, chiusura di cancelli che dividono altre sezioni, limitazione di colloqui, tentativi di imporre l'isolamento individuale, divieto di incontro tra detenuti della stessa sezione. A tutto questo si aggiunge il processo in videoconferenza, uno strumento che colpisce in diversi modi gli individui a cui viene imposto. Negare ad un detenuto di partecipare fisicamente alle udienze significa infliggergli un'ulteriore violenza, impedendo che il suo sguardo possa, anche solo per breve tempo, fuoriuscire dal ristretto orizzonte dell'istituzione totale ed incrociarsi con quello affettuoso e solidale dei compagni, degli amici, dei parenti. Nonostante l'isolamento cui sono stati costretti Gianluca e Adriano, la solidarietà nei loro confronti non è venuta a mancare. Nei corridoi del Tribunale di Roma eravamo in diversi ad incrociare i loro sguardi. Nei mesi precedenti sono state diverse iniziative in loro sostegno. Il 26 maggio saremo vicini a Gianluca e ad Adriano, consapevoli che la vicenda che li riguarda è parte di tutti e tutte coloro che mettono in gioco se stessi per esprimere e praticare le proprie idee di libertà ed uguaglianza, senza distinzioni, nel rispetto delle diversità di ogni vita. Anche a quel giorno Gianluca ed Adriano non saranno soli. Nel presente c'è il rischio che svanisca quanto può costituire una ragione di vita. Per non smarrirsi e perdersi nell'incoscienza, tutto va rimesso in questione, facendolo qui, facendolo ora. Qui ed ora può anche essere però un qualsiasi luogo in un qualsiasi momento. Se fuori, se la rabbia, se fuori e a lavorare e fuori sarà la lacca e non ti porto te lo faccio da piegare e te lo da potere perché tu sei giusto. Non sono per loro, ma per sempre tutti. Capendo che presto, lo stato cadrà e non ci saranno più cadere.